545. Pollo vestito. Non è piatto da farne gran caso, ma può recare sorpresa in un pranzo familiare. Prendete il busto di un pollastro giovane, cioè privo delle zampe del collo e dell'interiora. Ungetelo tutto con burro d'accio, spolverizzatelo di sale e un pizzico di questo versatelo nell'interno. Poi con le ali piegate fasciatelo con due larghe sottili fette di prosciutto più magro che grasso e copritelo con la pasta descritta nella ricetta numero 277, tirata col matterello alla grossezza di uno scudo all'incirca. Doratela col rosso d'uovo e cuocete il pollo così vestito a moderato calore nel forno o nel forno da campagna. Servitelo come sta per essere aperto e trinciato sulla tavola. A me sembra migliore di accio che caldo.